Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Mattino. Le 8, 17 minuti e 16 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è venerdì 18 settembre ed è la terza parte di 24 mattino. Al microfono sempre Simone Spezia, parleremo più avanti alle 8.35 di referendum. Lo faremo come sempre abbiamo fatto, come spesso abbiamo fatto in questi giorni, con un esponente del no, chi è a favore del no al referendum e quindi no al taglio dei parlamentari, e chi è a favore invece chi è per il taglio dei parlamentari. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta su qualsiasi argomento, come sempre a quest'ora abbiamo un appuntamento con Paolo Mieli. Ciao Paolo, finalmente ci siamo finalmente a un passo dal voto per le regionali e il referendum, ci liberiamo un po' della campagna elettorale e, lo dico, anche della par condicio ci costringe a fare calcoli complicatissimi. Quanto spazio hai dato a questo, quanto a quest'altro? Fermati, che hai ancora un giorno, perché lunedì non potremo sottrarci alle regole della par condicio. Da martedì che siamo lunedì, liberi. Lunedì proprio non parliamo di politica, perché è giorno di silenzio elettorale, si vota fino alle 15, sappiatelo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, quindi taceremo, parleremo d'altro, ci occuperemo d'altro. Caro Paolo, oggi la politica la fanno i TAR, i tribunali amministrativi, non è il primo caso a dire il vero, però oggi sui giornali anche, ma non solo, si torna a discutere di questo conflitto tra le regioni e lo Stato, no? E c'è un che anche di politico come sottofondo. Dunque, la notizia, anzi le due notizie, sono una che il TAR della Sardegna ha dato torto al presidente della Sardegna Christian Solinas, che pretendeva un passaporto Covid per entrare in Sardegna. Sì. Però il TAR del Piemonte ha dato ragione al presidente Cirio, che invece vuole che le misurazioni della febbre si facciano a scuola. Questa è una cosa enorme, sì. Perché dare ragione su questo è una delle questioni, insomma, una grave sconfitta per la Azzolina. E cosa c'è di interessante? C'è questo, che le regioni ormai, come sappiamo, adesso vedremo come vanno sabato, domenica e lunedì, ma sono in gran parte di centrodestra. La tensione con la maggioranza giallorossa è fortissima e non si è fermata di fronte al Covid. Si è visto tutto il caso di Lombardia, cioè è stata giocata una partita contro la Lombardia, che è a maggioranza leghista. Non lo si è fatto nel Veneto, ma in Lombardia lo si è fatto. Allora le regioni si premuniscono e iniziano una guerriglia contro il governo, che può metterlo in imbarazzo, perché sì, una volta ogni tanto, come è capitato oggi, il TAR dà ragione alle regioni, creando grande scompiglio. Nel frattempo, scusami il salto, vado in Europa. Ieri ci sono state due risoluzioni importanti, una contro Putin per l'affare Navalny e una contro Lukashenko per le vicende che abbiamo seguito tantissimo qui in questa rassegna. Bene, in queste due risoluzioni la maggioranza di governo ha votato la viva il parroco, cioè in una quella anti-Lukashenko, PD e Forza Italia hanno votato insieme contro Putin, PD e Forza Italia hanno votato contro, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia si sono astenuti La Lega ha votato, hanno votato contro Putin, PD sì, Forza Italia, la Lega ha votato a favore di Putin. Nell'altra, quella contro Lukashenko, invece si è astenuta la Lega e gli altri hanno votato a favore della mozione anti-Lukashenko. Praticamente, che vuol dire tutto questo discorso? Che manca un bandolo, manca un ordine, qui sta andando tutto in frantumi, altro che maggioranza Ursula. Ti ricordi quando ne parlammo molto, lo ricordiamo agli ascoltatori, di maggioranza Ursula, quando esattamente si compose il governo giallo-rosa, così chiamato, o rosso-giallo, giallo-rosso, come luglio, luglio di due anni fa, quando a sorpresa i 5 Stelle si unirono alla maggioranza di popolari socialdemocratici europei che votavano per Ursula von der Leyen, e quello fu un colpo di svolta della politica italiana, solo che noi quel colpo di svolta non siamo riusciti a tradurlo in qualcosa di organico, o meglio, siamo organici quando c'è da chiedere 209 miliardi, lì siamo organicissimi. Sì. Però come linea di condotta sulla Libia, sui migranti, su... E poi guarda, io oggi ho letto un'intervista a Ursula von der Leyen sulla revisione del Trattato di Dublino, mi sa che avevi ragione tu ieri, che per il momento sono parole, perché non vengono fuori le misure alternative. Però prima di darti ragione tanto che c'è anche una buona paginata del Corriere della Sera di Francesca Basso a Bruxelles oggi, che ci racconta che nel nuovo patto europeo sui migranti, che dovrebbe essere presentato il 23, tra pochi giorni, i ricollocamenti obbligatori sono a rischio. Quindi l'idea sulla quale puntava l'Italia, rendere obbligatori i ricollocamenti, non sarà facile la partita. Sì, purtroppo ti devo dare ragione, sai quanto mi costa. Comunque andiamo avanti. Vediamo oggi, a proposito dell'ultimo giorno dei sì e dei no, si schiera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il sì, Marco Travaglio impegna tutto il giornale, pubblica una lista di votanti per i sì, di cui fanno parte giornalisti, politici, attori, attrici. Però per il no c'è un nome pesante, pesante come fu a suo tempo quello di Romano Prodi, lo tira fuori la Repubblica, e Liliana Segre. E un altro giornale dopo Repubblica, perché Repubblica ha fatto l'endorsement per il no, anche La Stampa di Massimo Giannini fa un endorsement, sia pure, dice lui, a malincuore per il no. Marco Travaglio rievoca uno slogan di Montanelli e dice: turatevi il naso perché i candidati fanno schifo. Tra l'altro pubblica una lista dove gli impresentabili, i cosiddetti sono impresentabili, che sono 13. In gran folla nelle liste del centro-sinistra in Puglia e in Campania. Però loro fanno il dovere loro, prima denunciano gli impresentabili, poi dice: senti, puzzano, turate il naso e votate lo stesso. Per il governo si deve fare anche questo. Ti voglio portare su un argomento del quale stamattina abbiamo discusso molto con gli ascoltatori, perché c'è un po' su tutte le pagine dei giornali, ed è il tema del reddito di cittadinanza del quale godevano le famiglie dei fratelli bianchi, accusate l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. E partirei proprio da un paio di ascoltatori, Paolo, sentiamoli. Ed è proprio la mancanza dell'aggancio al collocamento del lavoro che fa diventare il reddito fonte di abusi, perché altrimenti quelle persone le scopri, non hanno intenzione di lavorare e il reddito glielo sospendi. Poiché di abusi ne avevamo già tanti, aggiungere il reddito significa avere aggiunto abusi. Limitavamo gli abusi e con i soldi che avanzavano facevamo il reddito. Così un paio dei nostri ascoltatori su questa storia, che porta un po' di giornali e non solo, un po' di osservatori, anche un po' di parti politiche, a mettere sotto accusa quello che è un provvedimento bandiera del Movimento 5 Stelle, Paolo, no? Sì, ho visto che il giornale addirittura lo chiama con un titolone: reddito di criminalità. Io, se vuoi sapere cosa ne penso, penso questo: io sono molto contrario al reddito di cittadinanza, soprattutto, sottolineo soprattutto, per come è stato concepito in Navigator, tutta una colossale montatura che porta a poco, a pochissimo. Però su questo campo le mie obiezioni sono invece a coloro che obiettano, nel senso che è ovvio che se tu fai un provvedimento reddito di cittadinanza a tutti, più o meno a tutti, è ovvio che ci finiscono dentro anche poi in questo caso non loro direttamente i Fratelli Bianchi ma le loro famiglie, ma chi è? Questa polemica è stata già fatta per Pietro Maso, quello che uccise i genitori, per l'ex brigatista rosso Raimondo Aetro, per Agata Rena, una neomelodica siciliana, anche lei si scoprì che aveva il reddito di cittadinanza. È evidente che svegliarsi ogni giorno e vedere che uno che ha ucciso una vecchietta poi percepiva il reddito di cittadinanza, secondo me non ha senso. Ripeto, ha senso obiettare al reddito di cittadinanza così come è fatto, ma queste obiezioni sono ridicole. Sì, criticare il reddito di cittadinanza appunto come provvedimento e per come si esplica, in parte però quello che ci dice il primo ascoltatore non è sbagliato, dice nel momento nel quale non funziona tutta la parte delle politiche attive del lavoro è anche più difficile scoprire le truffe, è oggettivamente vero. Comunque su questo tema bisognerà tornarci, su questo del reddito di cittadinanza in genere, del sostegno al reddito e via dicendo. Beh Paolo, non possiamo che chiudere con Ivanzina, che dici? Chiudiamo con Ivanzina. Un Vanzina, perché un Vanzina, uno purtroppo, ragione, Carlo Vanzina è morto, ragione, sì. Enrico Vanzina ha fatto un film che si chiama Lockdown all'italiana, te lo lascio immaginare, sì. Un film con Ezio Greggio, Martina Stella, e quindi anche qui apriti cielo, tutte critiche a dire ma come, la vicenda più triste della storia del paese. Però io dico una cosa, quando eravamo in pieno lockdown, lo ricorderai, i giornali erano pieni di paginate, lui e lei, la coppia al tempo del lockdown, come farà il marito a tradire la moglie a tradire il marito, ma anche giornali serissimi si occupavano delle conseguenze sociali, chiamiamole così, o familiari del lockdown. Non solo Paolo mi permetto di dire questo, che molte delle critiche sono piovute sui social, sugli stessi social era pieno di gente che raccontava anche dettagli suoi personali, no, di questa vita in lockdown, lo sopporto più, non ce la faccio più, ce l'ho da 2 mesi in casa, eccetera eccetera. E allora se Enrico Vanzina ha deciso di scherzare con un film su questa parte, non è che ha fatto un film sulle corsie, sui malati che morivano, io poi non l'ho ancora visto, ma se ha deciso di scherzare poi sempre a censurare lo scherzo, penso che sia una stupidaggine. Sì. Se uno decide di trovare un momento dice... Uno di questi social diceva faranno Natale a Chernobyl, e vabbè, faranno Natale a Chernobyl come film, come prossimo film di Natale, non mi stupisco né mi fascio la testa, dai, si può anche sopravvivere al lockdown all'italiana e a Natale a Chernobyl. Devo chiudere dicendoti 2 cose. La prima è che c'è qualcuno che manda degli WhatsApp chiamandoti già presidente, e questo non so se sia un bene per la nostra grande campagna oppure no. E un altro ascoltatore che ci suggerisce, dice lunedì che siete, che non c'è il silenzio elettorale, possiamo parlare per 10 minuti del presidente della Corte Costituzionale, però mi sembra che abbiamo dato su quel fronte, anche se oggi qualche giornale ci torna, mi pare Il Giornale se non vado errato, con un articolo molto duro su quello che abbiamo denunciato ieri, cioè questa pratica indecente della nomina per la durata di 3 mesi appunto del presidente di un organo costituzionale. Io guarda, te lo dico, non ci voglio tornare più, perché la Corte Costituzionale è arrabbiatissima per le nostre obiezioni, soprattutto per le tue. Io quando mi chiamo dico sempre che è colpa di Simone Spezia, dico che lui di queste questioni della Corte Costituzionale non capisce niente e fa delle critiche immotivate, io mi difendo così scarichi su di me. Per cui diciamo all'ascoltatore che sulla Corte Costituzionale abbiamo già dato, potremo tornare sul CSM, sul processo che dovrà fare a tutta la vicenda lì dell'Hotel Champagne, sì, la grande vicenda. Però la Corte Costituzionale, basta. CSM, un giorno la Corte Costituzionale. Va bene, grazie Paolo Mieli, ci risentiamo lunedì mattina 8:15 con argomenti a piacere che però non saranno la politica. Ciao Paolo, buon weekend, buon fine settimana. Ciao, buon weekend. Ciao. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, parliamo di referendum, se volete intervenire su tutti gli argomenti è 800 24 00 24, ci sentiamo tra poco. State ascoltando un programma offerto da... il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Lo sapete, no? Nel fine settimana, insieme al voto per le regionali, ci sarà il voto per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. È un referendum, a differenza degli altri referendum, quelli normali, i referendum costituzionali sono referendum confermativi, quindi se volete il taglio dei parlamentari dovete votare sì, se siete contrari dovete votare no. Come arriviamo a questo referendum? Perché la riforma è stata approvata nel 2019, verso la fine del 2019, nell'autunno del 2019. Larga maggioranza sia alla Camera che al Senato, e però quando non si raggiungono i due terzi in entrambi i rami del Parlamento, i parlamentari hanno 3 mesi di tempo per chiedere che appunto si svolga un referendum confermativo. La richiesta è arrivata da 71 senatori e tra questi c'era Tommaso Nannicini del Partito Democratico. Buongiorno Nannicini e benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Perché votare no? Votare no perché non si è mai visto nessuna parte del mondo, non in Italia, una riforma costituzionale che cambia il numero dei parlamentari senza cambiare le funzioni del Parlamento. Perché il numero è la conseguenza di un assetto istituzionale che riavvicina la politica e le istituzioni ai cittadini, non è mai la testa. Questa francamente è una riforma con le forbici in mano e nessuna idea in testa, non c'è un'idea di come riavvicinare Parlamento e politica alle persone. Lei come avrebbe fatto? Avrei superato il bicameralismo paritario, che così congeliamo. Avevano 2 Camere che fanno esattamente le stesse cose, con gli stessi costi di funzionamento, tra l'altro, alla faccia degli sprechi, della lotta agli sprechi. Si rimpallano le leggi, danno la fiducia ai governi, fanno e disfanno i governi anche con pochi senatori che conteranno sempre di più numericamente, che cambiano in base alle convenienze del momento. Quindi avremo un assetto molto instabile e molto inefficiente, che viene congelato solo perché non si ha il coraggio di fare una riforma compiuta che superi il bicameralismo paritario, con l'unica differenza che avremo 2 Camere più piccole, meno rappresentative dei territori, delle opzioni politiche, delle minoranze e meno funzionanti. Non proprio una grande idea. Un ascoltatore scrive: meglio un uovo oggi che una gallina domani, a rappresentare una delle argomentazioni del sì, che dicono, insomma, partiamo da qualcosa e partiamo dal taglio dei parlamentari e poi andiamo su tutto il resto. Accusano il no di benaltrismo. I problemi sono ben altri, no? Sono ben altri rispetto a una riforma fatta male, siamo d'accordo, per questo è bene dire no, così si manda un messaggio a chi agita falsi problemi, per strizzare l'occhio alla demagogia antipolitica, che è il momento di pensare ai problemi del paese, non a aiutare le persone contro la cassa mentre si fa noi stessi cassa. Però al di là di questo io dico che il problema è che qui non c'è l'uovo, c'è una frittata venuta male. Quindi fermiamoci un attimo. Questo è anche il paradosso di questa campagna: non si è mai visto nel referendum costituzionale che chi ti dice di votare sì ti dice vota sì perché ti deve piacere la riforma che il Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, ha appena approvato in 4 letture. No, questa volta unica si dice vota sì perché poi faremo le grandi riforme. Quali grandi riforme però non viene detto e con quale maggioranza neanche. L'altro giorno la maggioranza si è spaccata sull'età dei senatori, se devono avere 25 o 40 anni. La legge elettorale non c'è, perché tutti i partiti aspettano il 22 settembre, orologio alla mano, per iniziare a litigare con veti incrociati su come rendere la legge elettorale più vicina ai propri interessi. E non c'è neanche un'idea di superamento del nostro bicameralismo, alcuni dicono facciamo differenziato nel fronte del sì, altri dicono no, facciamolo paritario puro così avremo un monocameralismo di fatto. Quindi le grandi riforme non arriveranno mai, ci risolveremo solo con questo taglio lineare che di nuovo renderà toglierà voce ai veri territori e opzioni politiche e soprattutto renderà le istituzioni ancora più lontane dai cittadini, in modo che qualcuno fra un po' chiederà nuovi tagli, finché non arriveremo a uno che resta a decidere. Che, quindi che conseguenze teme? Le conseguenze sono queste, Nannicini, secondo lei? Avremo un Parlamento meno rappresentativo, che funziona peggio e soprattutto più controllabile. Qualcuno l'ha anche detto, meno sono, meglio li controllo. E chi controlla poi sono poteri esterni alla politica. Quando la politica è debole, qualcuno riempie i vuoti, o perché i parlamentari, quando sono meno, sono più raggiungibili, o perché le decisioni vanno da qualche altra parte. Non è che oggi le lobby non parlano con i parlamentari, però se la lobby X dà un emendamento a Nannicini, sta sul sito del Senato, i miei elettori mi possono dire: Nannicini, perché presenti solo emendamenti della lobby X? Se invece le decisioni le prende una task force, francamente le proposte da dove arrivano non lo sa nessuno. Quindi io difendo l'autonomia della politica. Certo, una politica deve essere trasparente, controllabile, ma controllabile dalle elettrici e dagli elettori, non da qualcun altro, magari dai capi partito che metteranno in Parlamento solo fedelissimi nelle liste bloccate. Nannicini chiede un ascoltatore cosa votò lei al referendum del 2016. Beh, votai sì, non solo votai, feci campagna per il sì. Perché lì c'era un'idea, c'era una riforma organica. Poi anche allora, quando facevo campagna, dicevo: sbagliamo a motivare, perché anche lì era uno dei temi, con il taglio alle poltrone, una riforma che non è un taglio lineare, ma che è un ripensamento dei limiti del nostro assetto istituzionale. Si superava il bicameralismo paritario con un'unica Camera che dava la fiducia al governo e faceva le leggi di bilancio, e un'altra che invece era il luogo che dava rappresentanza a regioni e enti territoriali, completando anche una riforma, quella del titolo quinto, fatta anche allora per motivi tattici, un po' alla Carlona, per strizzare l'occhio allo spirito dei tempi, perché non si doveva regalare il federalismo alla Lega, si doveva essere più leghisti della Lega. Adesso, per non regalare il taglio delle poltrone ai populisti, si finisce per giocare con le istituzioni malamente un'altra volta. Senta Nannicini, visto che l'abbiamo qua e che, non so se gli ascoltatori lo sanno, ma Tommaso Nannicini di formazione è un accademico, è professore di economia politica all'Università Bocconi di Milano. In queste ore, Nannicini, ci sono molte discussioni, si faccia coinvolgere su questa storia del reddito di cittadinanza alla famiglia dei fratelli Bianchi. Che sensazione le dà? Che effetto le fa? Perché ne abbiamo discusso molto con gli ascoltatori oggi. Ce ne abbiamo tra l'altro un altro in linea, che un ascoltatore in linea che voglio ascoltare esattamente su questo tema. Che cosa ne pensa? Beh, ovviamente non entro nel caso specifico, nel senso che poi quando c'è un istituto è chiaro che deve essere un istituto generale, che può andare anche l'abuso ci può essere, dice lei. Sì, e poi bisogna capire se è un abuso, può anche c'è due temi: va a qualcuno che non dovrebbe averlo, va a qualcuno che per la legge che è scritta con criteri generali dovrebbe averlo, ma a noi non fa piacere che ce l'abbia, sì. Però no, non possiamo mischiare il giudizio morale con il disegno di un istituto che appunto non può fare l'analisi del sangue, ma deve dare dei criteri generali. Poi, se vuole la mia sul reddito di cittadinanza, bianchi o non bianchi, ci sono errori in quel disegno che lo rendono poco efficace, sia per aiutare i disoccupati, sia per aiutare i poveri, perché si confonde se aiutare i disoccupati e i poveri. In tutta Europa ci sono due strumenti diversi per fare una cosa o l'altra, e averlo di nuovo anche lì in maniera un po' demagogica venduto come la soluzione a tutti i problemi legati alla perdita del lavoro, ai cambiamenti del mercato del lavoro, è stato un errore che lascia sole le persone. Adesso la mia ossessione, soprattutto in questa crisi, è migliorare il nostro sistema di welfare, di ammortizzatori sociali, per aiutare chi non ha aiuti. Poi certo, c'è anche da stare attenti a non aiutare chi non ne ha bisogno, sì. Però adesso il tema tema. Il tema centrale è quello. A proposito di Europa, Nannicini, chiuderei con questo, con lei. C'è la proposta arrivata da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione di uno schema di salario minimo. Se ne è discusso tantissimo. C'è stato anche uno scontro sui numeri, su quanto deve essere questo salario minimo. E però c'è un'apertura europea. Come la legge, come la vede? Beh, è un'apertura che sta dentro il quadro disegnato dalla nuova Commissione, se è un quadro giusto quello di dire che l'Europa difende il suo modello sociale e esce dalla crisi, se raccoglie una sfida di competizione economica internazionale non sui costi, non abbattendo i costi, ma investendo in innovazione, agganciando la transizione tecnologica ed ecologica delle nostre economie. Quindi anche la raccomandazione sul salario minimo sta dentro questo schema. Si deve aumentare la produttività per far salire i salari verso l'alto, si deve avere uno schema in tutta Europa di salario minimo che gli impedisce di scendere verso il basso o fa dumping, fa concorrenza sleale sul costo del lavoro tra paesi europei. Detto questo, non è un numero, non è che sta parlando la Commissione di mettere un numero unico in tutta Europa, sarebbe impensabile, raccomanda solo a tutti i paesi di avere uno schema di salario minimo che può essere sia fissato per legge sia rimandato in maniera forte e generale alla contrattazione collettiva. Grazie a Tommaso Nannicini, senatore del Partito Democratico, buona giornata. Grazie, buongiorno. Pietro, alla provincia di Ferrara, rapidamente. Pietro, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo dire che condivido quello che ha detto il senatore Nannicini. Voglio aggiungere però che il reddito di cittadinanza è necessario, magari riducendolo, perché 780 euro non capisco perché poi ci debbano essere pensionati che prendono meno del reddito di cittadinanza, no? Tra le altre cose. E poi volevo dire che però è una misura necessaria, perché se durante il lockdown non ci fosse stata, io credo che ci sarebbero stati dei grossissimi problemi per quello che riguarda tanta gente, no? Ecco, poi volevo aggiungere una cosa per quello che riguarda il referendum, no? Ma guardi Pietro, la fermo sul referendum perché adesso ci arriviamo, poi mi sballate tutta la par condicio, ragazzi. Maria Stella Gelmini, buongiorno. Buongiorno a lei, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Lei può farlo, nel senso che l'abbiamo chiamata anche per questo, naturalmente. Lei è per il sì, una posizione dissonante da quella di grandi pezzi del suo partito, tanto che quei 71 senatori che hanno firmato per il referendum, la componente più ampia è di senatori di Forza Italia. Ci dice perché votare sì? Beh, perché intanto noi alla Camera, io sono capogruppo alla Camera e quindi i deputati hanno nella stragrande maggioranza votato sì in aula, ma non è solo questa la ragione. La ragione è che attraverso questa riforma si attuano dei risparmi e trovo che sia sbagliato lasciare al Movimento 5 Stelle e a Beppe Grillo il tema dei costi della politica. Dopodiché capisco e rispetto la posizione di tanti senatori, di tanti colleghi, come per esempio Simone Baldelli, che si sono espressi per il no, perché questa è una riforma incompleta che affronta il tema dei risparmi ma non affronta un altro tema importante, che è quello dell'ottimizzazione e dell'efficientamento dei lavori parlamentari. Questo sarà un compito che toccherà al centrodestra una volta tornato al governo, riformare i regolamenti parlamentari. E qua c'è l'osservazione, abbiamo appena sentito Tommaso Nannicini, abbiamo avuto ospite Tommaso Nannicini, c'è l'osservazione del fronte del no che dice poi però queste riforme o non si faranno mai o si sta facendo una riforma che è monca, perché se non sai come fai la legge elettorale, se non sai come fai le altre riforme, i regolamenti parlamentari, non serve a niente, sarebbe stato meglio eppure mettere... da qualche parte bisogna pur cominciare. Quindi io il collegamento al tema dell'efficienza dei lavori parlamentari lo capisco. Non comprendo quello il legame con la legge elettorale, lì mi sembra che sia semplicemente un do ut des tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Parliamoci chiaro, il PD avrebbe voluto dire no, si trova costretto a dire sì perché è dentro un'alleanza di governo e prova a portare a casa la legge elettorale per rivendicare un risultato. Onestamente trovo che sia legato solo a calcoli interni alla maggioranza e trovo che in questo momento parlare di legge elettorale con un paese che ha problemi di occupazione, problemi di tasse, di infrastrutture. Ieri sono stata nelle Marche e in Abruzzo, c'è ancora il tema della ricostruzione post sisma, quindi ci sono persone che vivono ancora in condizioni, in case provvisorie. Francamente parlare di legge elettorale non credo che sia in cima ai problemi degli italiani. Penso che non ci sia un italiano che si svegli la mattina e dica: che legge elettorale mi daranno? Quindi francamente quello, il legame con la legge elettorale è legato, diciamolo Gelmini, perché sennò poi possiamo, sì, però diciamocelo Gelmini, sennò poi si continua a svilire il ruolo della politica. La legge elettorale è comunque importante, cioè il fatto che gli italiani non si sveglino pensando alla legge elettorale non vuol dire che la legge elettorale non sia importante, perché è qualcosa che ti permette di scegliere o non scegliere le persone che mandi in Parlamento, e quindi, ma non è che non abbiamo una legge elettorale, abbiamo una legge elettorale che garantisce la rappresentanza e la governabilità. Vogliamo tornare alla palude col proporzionale, liberi tutti, così la sera del voto i cittadini non sanno il giorno dopo chi governa una volta che ha vinto. Quindi mi pare francamente che cambiare la legge elettorale sia un tentativo maldestro di non prendere atto della realtà, che c'è una coalizione di centrodestra che con questa legge elettorale vince le elezioni. E quindi si prova a cambiare la legge elettorale per rimanere ancora una volta maggioranza pur non essendolo nel paese. Quindi, come dire, sono distante da questo modo di interpretare la politica. Non, quando si hanno i voti, con qualunque legge elettorale o quasi si vince. Quando si prova a cambiare la legge elettorale perché non ci sono i numeri, onestamente si va un po' contro la democrazia. Non è una difesa della democrazia, è una difesa interessata del proprio ruolo. Gelmini, io ho perso un po' le tracce, voi siete a favore delle preferenze oppure no? Noi siamo a favore di un principio di rappresentanza e di governabilità. Io non sono contraria alle preferenze, non credo che sia l'elemento decisivo. Le preferenze hanno vantaggio di favorire un collegamento con il territorio, lo svantaggio di anteporre, come dire, il singolo rispetto al lavoro di squadra, quindi è un elemento che deve essere bilanciato. Io personalmente non sono contrario alle preferenze. Non è contrario alle preferenze? No. Senta Gelmini, oltre al referendum del quale abbiamo ampiamente parlato, ovviamente ci sono le elezioni regionali. Elezioni regionali che un po' tutti hanno detto non avranno un impatto sul governo, sono parole che sono arrivate tanto dalla maggioranza quanto dal principale partito di opposizione, che è la Lega. Potrebbero però avere un effetto sulle coalizioni e sui singoli partiti. Ora, è chiaro che l'elemento dirimente è forse la Toscana, Gelmini, sotto tanti aspetti, sia per quello che succede all'interno del PD, ma forse anche per quello che succede all'interno della coalizione di centrodestra, perché là si avrebbe una Meloni, una Fratelli d'Italia fortemente rafforzato e una Lega presumibilmente indebolita nel caso di sconfitta in Toscana. La vede così o no? Ma guardi, sicuramente il dato della Toscana è molto interessante, perché per la prima volta questa regione appare contendibile. La distanza tra la Ceccardi, candidata del centrodestra, e Gianni, candidato del centrosinistra, è una distanza lieve. E quindi per la prima volta il centrodestra ha la possibilità, dopo 50 anni di governo della sinistra, di conquistare questa regione. Io penso che il voto delle regionali sia importante per i cittadini, perché da un buon governo della regione dipende la sanità, dipendono i servizi, le infrastrutture, il rapporto con le imprese, la capacità di sburocratizzare. Però io credo che invece questo risultato, se il centrodestra vincerà, come io mi auguro, molte di queste regioni, non potrà essere ignorato da Conte e dalla maggioranza, perché comunque va al voto un terzo degli italiani, quindi delle conseguenze secondo me ci saranno. Sì. Certo, girando l'Italia in questi giorni ho visitato un po' tutte le regioni. E su di voi, sul centrodestra, ci saranno queste conseguenze oppure no? Cambieranno i pesi oppure no, secondo lei, Gelmini? Ma guardi, io credo che ci sarà una buona affermazione della coalizione. È chiaro che c'è una competizione virtuosa all'interno. Io sono poco interessata alla battaglia. Non me lo vuole dire. Lega. Sono triste perché non me lo vuole rispondere. Dire. No, le rispondo. Non sono interessata alla competizione tra Lega e Fratelli d'Italia, sono interessata a quello che fa il mio partito. Forza Italia deve affrontare una fase di ricostruzione del proprio partito sul territorio, se ne parlerà dopo le elezioni, certamente rimaniamo un momento centrale della coalizione, perché senza di noi la coalizione sarebbe una destra, con noi diventa un centrodestra, e ricordiamoci che sono i valori e i programmi di Forza Italia che hanno plasmato questa coalizione. Quindi mi interessa più il futuro di Forza Italia che quello di Lega e Fratelli d'Italia, ma vedo che la coalizione comunque è messa bene un po' dappertutto, e i nostri governatori che si sono ricandidati, penso a Zaia, penso a Toti, hanno comunque già vinto la sfida del buon governo, tant'è che sono apprezzati un po' da tutti. Grazie Maria Stella Gelmini. Grazie a voi. Capogruppo di Forza Italia alla Camera. Buona giornata, noi ci fermiamo. Buon fine settimana a tutti. Grazie a Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione. Grazie ragazzi, e grazie anche a Margherita Ina, Francesco Saraffo. Ci sentiamo dunque lunedì alle 6:30 in pieno silenzio elettorale. Sapremo raccontarvi qualcosa di interessante lo stesso. Don't worry. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.